ba ba ba ba da ba ba da ba ba ba ba ba da ba ba da. Che la forza sia con te. Sono sempre i migliori quelli che se ne vanno. Stia tranquilla. A tutto c'è rimedio fuorché alla morte. Beh, io sono un po' qui per questo. Beh, ma non sarà poi la morte di nessuno, no? Era tanto allegro. Era tanto becco. Specie negli ultimi anni. Beh, signora mia, prima o poi capita a tutti. Di essere becco o di morire? Faccia lei. Finché siamo in ballo, dobbiamo ballare. Come si dice, oggi a te, domani a lei. Ah, siamo tutti nella stessa barca. Mi scusi, è stato già detto siamo nati per soffrire? No. Siamo nati per soffrire. Prego. Tocca a me. Prego. Siamo fatti di carne ed ossa, signora. Anch'io, grazie. E lei? Abbastanza, grazie. I suoi tutti bene? Abbastanza bene, grazie, oddio. La mamma si preoccupa un po', ma quello si sa. La mamma è sempre la mamma. Di mamma... E ce n'è una sola. Ecco, sono tre. Se ci dice la terza, ci sbrighiamo subito, subito, subito. Sono tutte belle le mamme del mondo. La vita è fatta così. Oggi sai dove sei, domani non lo sai più. Ma guardi, secondo me la vita va presa con filosofia. È vero. Oggi come oggi la vita non è più come una volta. Io mi domando e dico, di questo passo dove andremo a finire? No, non esiste più la mezza stagione. Lei mi trovi una mezza stagione qualunque e io gliela pago oro, oro. Si passa dal freddo, freddo, freddo, freddo, al caldo. Caldo, caldo, caldo, caldo. Non sai mai che cosa mettere. È tutta colpa... Dell'Isis? Del buco nell'ozono. Ma di tutti quei missili che mandano per aria. Ah, l'ombrello spaziale. Da quando hanno fatto l'ombrello spaziale, non piove più. È vero. Si stava meglio quando si stava peggio. Sacrosanto, no? Guarda, poi oggi le città sono diventate invivibili. C'è traffico a tutte le ore. Un parcheggio? È più. Un parcheggio? È più. Un parcheggio? È più. Lei mi trovi un parcheggio? È più il tempo che passi in macchina che... La lascerei sospesa questa senza un finale. Ah, in città soltanto d'estate. È vero. Quanto è bella la città ad agosto. Perché non c'è nessuno, allora te la godi. E allora te la godi. Secondo me il mese di agosto è il peggiore per andare in vacanza. Il mese di agosto anche il posto più bello diventa brutto. Coro. Per la gente che c'è. Quando vuole un consiglio, signora? Volentieri, cara. Giugno e settembre. Per andare in vacanza, i mesi migliori. Giugno e settembre. Sono i mesi migliori, eh? Sono sempre migliori quelli che se ne vanno. E non esiste più la mezza stagione. E si stava meglio quando si stava peggio, no? Guarda, se poi tu oggi cerchi un impiego, non vai avanti se non hai una poderosa raccomandazione. Ma di qualunque colore, rosso, bianco, verde, la politica dappertutto è un magna, magna, un raffreddamento. affamento. Per carità, c'è! Parlano, chiacchiere. Parole, fatti, niente. E poi litigano. E poi mangiano tutti insieme. E si riempiono la pancia. Falsi, ma per carità, c'è! Medi guerra, i concorsi per un posto pubblico si presentano in 5.000, per quanti posti? Tre! Non esiste più la mezza stagione. Una volta era diverso, sì, una volta, ma i sapori di una volta. Adesso vai a mangiare qualunque cosa e mela, pera, pesca, banana, susina, fragola, limone, lampone, hanno tutti lo stesso sapore. Coloranti, conservanti, falsificanti, veleno! Le tasse, chi le paga le tasse? Chi le paga? Noi! Voi! E mica quelli che c'hanno gli elicotteri e le proprietà! E mica quelli che c'hanno le automobili! Ma per carità! Dimmi se una donna può uscire da sola la sera in città. Ci ho provato tante volte, ma niente. Le città oggi sono giungle, Bronx, non esiste più la mezza stagione. E abbia pazienza. Questo è un concetto che ho già enucleato in precedenza. Mi lasci enucleare nuovi giovani concetti. La scongiuro, mi lasci progredire. Non esiste più religione, ma i giovani di adesso si baciano per strada, parolacce, arroganti, sporchi, per carità! E non esiste più la mezza stagione. Si stava meglio quando si stava peggio. Oh, l'ombrello spaziale. Ma vaffa. Che diluvio di parole. Non esiste più la mezza stagione. L'ombrello spaziale. Da quando hanno fatto l'ombrello spaziale sta più piove più.